Allora ritorniamo in onda, mattinata di sgomberi, sfratti e provocazioni in varie città italiane. Abbiamo già sentito Torino e Milano, abbiamo adesso in collegamento un compagno di Livorno. Lì la situazione è meno grave rispetto alle altre due città, però c'è stata questa mattina un'ennesima provocazione da parte della Digos per un'occupazione che c'è stata qualche giorno fa, per cui abbiamo in collegamento Simone. Gli chiediamo un attimo di spiegarci da dove vengono queste provocazioni e che cosa è successo nelle ultime settimane a Livorno. Esatto. Ok, allora senti, sì, praticamente niente. Sabato scorso c'è stato un bellissimo corteo qua a Livorno con più di 1000 persone che hanno partecipato. Era un corteo per rilanciare la solidarietà con tutti gli imputati al processo, quello di quel cosiddetto assalto alla prefettura che c'è stato nel dicembre del 2012. Chiaramente, sapendo bene che il miglior modo per rispondere alla repressione è continuare nella lotta, appunto quella giornata lì è terminata con l'occupazione proprio di una palazzina intera nelle case popolari qua di Livorno, in un quartiere popolare di Casalp, che è l'agenzia municipalizzata che gestisce appunto le abitazioni popolari qua nel comune di Livorno. Questa palazzina qui era stata svuotata qualche mese fa con la scusa, a quanto pare, che sembrava essere appunto pericolante, però esteriormente non mostrava nessun danno strutturale e anche interiormente molti appartamenti sono intatti, perfetti, senza alcuna crepa o altri danni evidenti. Cosa è successo? Subito il sabato sera, dopo l'occupazione, la questura ha provato a mostrare un po' i muscoli con la minaccia di sgombero, però la determinazione, diciamo, del presidio post corteo ha di fatto insomma un po' ricacciato indietro le volontà della questura e qua siamo rimasti. L'indomani mattina, la domenica, si sono ripresentati qua la Digos con quelli di Casalp dicendo che la palazzina era appunto pericolante, che ce ne dovevamo andare. Anche lì un po' la determinazione degli occupanti del presidio di Solidali ha impedito questa cosa qua e giustamente noi abbiamo preso tempo, abbiamo detto vabbè, se veramente la palazzina è pericolante fate anche venire un nostro perito di parte che dimostri veramente se è pericolante o meno questa palazzina. Avevamo appunto tempo una settimana intera, quindi fino a sabato prossimo praticamente, già infatti quindi comunque si stava già iniziando a lavorare su questo tema qua, anche con un incontro in città su quel tema della casa, eccetera eccetera. Però stamattina, che appunto era la giornata in cui doveva venire il nostro perito, guarda caso strano, la Digos si è ripresentata in forza, proprio l'ufficio al completo, con anche chiamando anche di rinforzo anche a un paio di camionette dei carabinieri, dicendo che ci avrebbero dovuto mandar via di qua perché il palazzo era pericolante, perché Casalp non poteva assicurarsi, diciamo, la responsabilità, accollarsi la responsabilità di un presidio qui sotto, insomma inventando queste storie qua. Quindi hanno provato un po' a mandarci via di qui, a sgomberarci con il presidio, però appunto l'arrivo dei Solidali ha di fatto un po' impedito questa cosa qua e ora niente, stiamo aspettando che arrivi appunto il nostro perito per vedere per davvero se questa palazzina qui è pericolante o meno e capire le vere motivazioni per cui l'hanno mandato via le famiglie che qua abitavano. In tutto ciò comunque sia, ricordiamo che ci sono 5 famiglie che dovevano entrare ad abitare in questa palazzina qui che di fatto, cioè comunque sia, in questo momento non hanno una casa, quindi insomma c'è un problema di sicuro di emergenza abitativa nello specifico che va gestito. Insomma, questo è un po' il quadro di quello che è successo. Certo, sì, quindi prossime iniziative in campo, a parte appunto attendere ora il perito vostro, diciamo, di parte, mi dicevi si prevede per sabato una mobilitazione? Esatto, sì, allora domani giovedì sera ci sarà un incontro pubblico in città proprio su questa di discussione anche sul tema appunto della casa, perché a Livorno ci sono tantissimi sfratti per morosità, tantissime persone, tantissime famiglie senza casa, quindi è un problema sentitissimo qua a Livorno, con un patrimonio poi in realtà pubblico di case popolari spesso vuote, sfitte, o comunque sia sulle quali creano speculazione, vendendo ai privati, ristrutturando e demolendo addirittura palazzini popolari. Quindi c'è sicuramente un incontro di questo tipo qui per rilanciare appunto la giornata di sabato, che invece sarà appunto una giornata di resistenza qua in via Giordano Bruno, appunto perché questa è una palazzina vuota e non capiamo perché con 20 alloggi a disposizione nessuno di questi 20 alloggi debba essere assegnato a delle famiglie senza casa. Quindi sì, sabato rilanciamo questa giornata di mobilitazione fin dalla mattina presto qua in via Giordano Bruno. Va bene, senti, noi ti ringraziamo, chiaramente ci risentiremo per eventuali aggiornamenti, speriamo che la situazione non si aggravi. Okay. Va bene, buona giornata a tutti e tutte lì a Livorno. Va bene, grazie. Grazie a voi. Ciao.